oltre la crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione. Torniamo in diretta per l'ultima puntata di Oltre la crisi, parliamone. Francesco, è l'ultima. L'ultima in assoluto di tutti i tempi. Adesso questo non è dato saperlo, per il momento è l'ultima. Chi è? No, ma voglio sapere. Io sto vivendo uno stato di crisi da ultima puntata. Benissimo, allora parliamo di questo. No, l'ultima. Del mio stato di crisi, certo, da ultima puntata. Tua. No. Intanto saluto Elisa che è in regia con noi anche oggi. Ti devo dire una roba, che la volta scorsa Amici di Rivivere ti ha mandato i saluti. Ah, saluti a Elisa la regia, ma siccome c'era la rete che andava a manovella la settimana scorsa, io non l'avevo visto quel messaggio lì, l'ho visto l'altro giorno, quindi... Salutiamo oggi, buongiorno a tutti. Ecco, Elisa è qua con noi. C'è anche Willy dietro alle spalle di Elisa che incombe. Ciao Willy. Buongiorno, ciao a tutti. Buongiorno. Allora, dopo una lunga litigata pre-trasmissione, sì, i Franceschi hanno... Oggi eravamo tutti un po' caldi. Pesantemente discusso sul tema di oggi, abbiamo raggiunto un compromesso. Allora, la notizia di oggi di cui a me interessa il giusto, ma vabbè, non voglio farla snob. L'altra invece è una notizia grave. La prima è... quella che non mi interessa è che l'Italia ha perso la qualificazione ad andare avanti nei mondiali e quindi si è fermata, torna a casa, e ovviamente non ne vogliamo parlare dal punto di vista calcistico, ma dal punto di vista del significato sociale, economico, relazionale, chi più ne ha più ne metta, sociologico, chi più ne ha più ne metta. L'altra invece notizia, quella grave, è che Ciro Esposito è morto, il tifoso che era in coma farmacologico al Gemelli di Roma, e i familiari chiedono di non adire a ulteriori violenze in nome di questa morte, ma denunciano anche un grande silenzio delle istituzioni, e anche questo c'entra un po' con la nostra trasmissione. Francesco. Ma hai messo insieme due cose che, come dire, vanno abbastanza insieme, anche se, come dire, sono due facce completamente diverse della stessa problematica. Una è quella della violenza che accompagna il calcio, più lo sport più popolare che è il calcio, e l'altra invece è il significato simbolico della identificazione dei popoli con i calciatori, con le squadre nazionali, con le bandiere, così eccetera, e la crisi che ne può derivare tutte le volte che la squadra nazionale in qualche modo perde, viene sconfitta, così eccetera. Ora, scusa, a proposito di Ciro, però ti voglio leggere una dichiarazione del cappellano dell'ospedale Cristo Re, che insomma ha dato l'estrema unzione a questo ragazzo, e ha detto una frase che secondo me c'entra molto con la nostra trasmissione, ovvero: l'Italia è il paese delle grandi catarsi collettive, dopo una settimana ci si dimentica tutto. E anche questo c'entra. Ma io andrei controcorrente, cioè, secondo me certe cose è meglio dimenticarsele. Cioè, dal punto di vista, per esempio, dell'elaborazione di un lutto, la capacità di dimenticare è una capacità, come dire, notevole di un popolo. Noi, come dire, resistiamo nei secoli a un caos che ci caratterizza, a un'anarchia che ci caratterizza, proprio perché siamo in grado di dimenticare. Allora, secondo me però lui voleva più dire un'altra cosa: fa notizia appena avviene, dopodiché si rimuove passando ad altro. Ma è meglio così, perché non è che questo è meglio quando prendono una notizia e ce la bombardano nel cervello per settimane e settimane, come fanno, perché non è sempre così. Cioè, secondo me queste cose qui, come dire, queste cavatine sono, come dire, un po' superficiali. È vero, si tende a dimenticare, eccetera, ma il significato di questo nessuno lo approfondisce. Che significa? Perché si dimentica? Perché si dimentica tutto? Secondo me perché, essendo un paese in cui non si risolve mai niente, l'unica difesa che si ha per continuare ad andare avanti è passare avanti, è dimenticare. Allora, è positivo o è negativo? Da un certo punto di vista è negativo, ma da un altro punto di vista è positivo. Bisognerebbe innescare un processo, una reazione differente, cioè una reazione più seria, tendente a dire la cosa magari va dimenticata, però per fare in modo va dimenticata, il modo giusto per dimenticare è dimenticarla perché non avviene più, non dimenticarla perché così non mi disturba. Quindi bisognerebbe però dimenticarla perché non avviene più, vuol dire trarre lezione da quello che accade, modificare le situazioni, risolvere i problemi che ci stanno sotto e superare e era dimenticare. Era qua che ti volevo, sai. Sei arrivato. Sì, no, ma se tu vuoi dire quello. Sì, volevo dire quello. Mi ero appoggiata a questa. Se il cappellano diceva quello. Io non lo so, il cappellano cosa volesse dire. A me ha dato quella sensazione lì. Vuol dire questo, però io ti dico da psicologo, come dire, la psicologia di massa osserva con grande interesse tutti i processi di difensivi di tipo collettivo. Non so, per esempio, il carattere distraente di una partita di calcio in un campionato mondiale è fondamentale per, come dire, addormentare le masse, come si diceva una volta, no? L'oppio, quindi è quasi l'oppio un dei bene che l'Italia sia certo, ha determinato la sua corsa. Certo, cioè, da questo punto di vista è un bene, perché il problema è che così ci ricordiamo di quali sono i veri problemi. Se andavamo avanti, a parte che adesso, come dire, tutti si dimenticheranno di nuovo i veri problemi perché guarderanno lo stesso i campionati del mondo, non è che è più efficace quando ci sei anche tu lì che lotti e quindi per vincere, per cui ti puoi identificare di più, ma non è che è finita, ancora abbiamo un delirio, qua ci sono, c'è il Brasile, c'è la Germania, c'è la Francia, c'è l'Olanda, non è, vinca il migliore, adesso diranno tutti, bene, adesso così siamo più tranquilli, possiamo vedere le partite con spirito più sportivo, perché possiamo ispirarci al detto di Coubertin, l'importante è partecipare. E quindi l'importante è partecipare, io direi che possiamo andare in musica su questa riflessione. Thank you. bene, rientriamo in diretta. Stiamo parlando di come superare la crisi della perdita della partita dell'Italia di ieri, la banalizzo così. Tu, Francesco, hai detto prima, hai chiuso prima di andare in musica dicendo si è perso un po' il detto l'importante è partecipare. Beh, certo che si è perso, anche perché la fa da padrone l'efficientismo, come in moltissimi campi bisogna essere efficienti, competitivi, i migliori, i più belli, i più bravi, i più tosti, eccetera, eccetera, eccetera. Sì, e si dimentica così che si sta giocando. Il gioco, per definizione, è, sì, può essere competitivo, si gioca per vincere, così, eccetera, ma però nel gioco la cosa più saggia e più importante, più maturante, è che bisogna saper perdere. Bisogna saper perdere. Questo è quello che nel gioco matura, è il fatto di imparare a perdere. Se tu devi vincere per forza, non è più un gioco, appunto, è una competizione, una specie di guerra, che può essere una guerra simbolica, che in qualche modo ti distrae dalle guerre reali, così eccetera. Però in realtà il calcio che cos'è? Il calcio è una competizione sul piano del business, sul piano del business che si traduce in simbologie. Allora bisognerebbe, appunto, per esempio adesso, invece che dire allora tutti si dimettono, allora adesso la responsabilità di chi è incolpare tutti, eccetera, ma cosa è successo? Abbiamo perso una partita, abbiamo perso, no? D'altra parte si sapeva già che perdevamo, perché eravamo scarsissimi, si sapeva già che eravamo scarsi. L'idea nostra è che anche se siamo scarsi possiamo vincere lo stesso, se siamo fortunati, se la fortuna ci favorisce, se gli altri sbagliano più di noi, sono più scarsi di noi e così via. Eravamo scarsi, saremmo stati battuti al primo confronto diretto. Certo. Quindi qual è il problema? Sarebbe stato molto più chiaro durante le amichevoli dire vabbè, andiamo al campionato del mondo, però siccome perdiamo con tutti non è che potremo vincere, perderemo, no. Io intanto ricordo i numeri per mettersi in contatto con noi, 051 34 6458, se volete intervenire in diretta via voce, e 333 180 94 94 per i vostri sms o whatsapp. La domanda potrebbe essere: siete competitivi nella vita, nel vostro essere tifosi, nel quotidiano? Sapete perdere, non sapete perdere? Quale opinione avete in merito a questa cosa qui? Questo potrebbe essere un modo per cominciare a partecipare, a ravvivare la discussione e anche porre questioni che riguardano proprio questa sfera. Io c'è un'altra cosa, prima io ho detto una cosa che non mi interessa, non voglio farla snob, no? Ho detto, perché io non è che ce l'ho tanto con il calcio in sé come attività, se c'è lo guardo, se non c'è non lo guardo, non sono una tifosa, ma è comunque un intrattenimento che non mi disgusta, ecco, mettiamola così. Quello che invece mi disgusta o mi infastidisce, quindi dopo mi crea anche un sentimento di repulsione, è tutta questa ritualità che si crea intorno a un gioco, che quindi poi lo rende fondamentale, importante, si ferma tutto per eccetera eccetera eccetera. Ma qui secondo me bisogna distinguere molto bene fra quello che è il sentimento individuale, che può essere il tuo, che appunto sì, non sopporta la ritualità, e la domanda se i popoli hanno bisogno di ritualità. Il problema è, si potrebbe, parafrasando un grande autore, dire disgraziato quel popolo che ha bisogno di ritualità. La ritualità è come gli eroi ci vogliono finché c'è la guerra, quando non c'è più la guerra gli eroi, se uno vuole essere un eroe è meglio che stia a casa, d'accordo? Lo stesso è per la ritualità è importante finché i popoli si coagulano, stanno tutti insieme, no? Attraverso dei rituali, e non perché effettivamente condividono un certo modo di gestire e vivere la vita. Quindi le ritualità sono necessarie finché non si è trovato un modo alternativo rispetto a quello che l'umanità ha seguito finora di mettere insieme tutti, belli e brutti, ricchi e poveri, tutti gli italiani che ascoltano Fratelli d'Italia e che seguono la partita, sono tutti insieme, finalmente sono la patria, gli italiani, tutti insieme, attraverso un rituale, che una volta era un rituale religioso e che adesso è quello del calcio, ma che non è meno religioso però della religiosità. Da questo punto di vista il calcio è l'oppio dei popoli. Oggi è il calcio l'oppio dei popoli, non è più la religione, perché la ritualità è la ritualità dei giochi popolari, non è più la ritualità delle religioni popolari. La ritualità delle religioni popolari è data in crisi, ma è stata sostituita in qualche modo con la stessa funzione, cioè la funzione di aggregazione, dalla ritualità del gioco. Allora il problema è, ne avremo sempre bisogno? Se chi pensa che ne avremo sempre bisogno tende a non sottovalutare il valore ritualistico del calcio, di un gioco così popolare, perché è utile per aggregare, per farsi sentire tutti uguali, per farsi sentire tutti insieme, per farsi sentire Fratelli d'Italia, no? Io però ti volevo chiedere questo a proposito del rito, perché io non demonizzerei il rito, non mi viene da demonizzare, scusa, il rito in quanto tale, perché ci può essere una ritualità appunto garbata che mette insieme, che crea identità, che crea confidenza, mi verrebbe da dire. E quello che a me spaventa è la ritualità esacerbata, esagerata, spinta all'estrema, che trovo negativa, perché arriva a essere controproducente, perché anziché unire divide poi. No, perché? Perché no? Cioè, secondo me quello che caratterizza il valore aggregante della ritualità non è il suo eccesso o la sua delicatezza o la sua misura, no? Perché ci sono rituali eccessivi che aggregano e rituali eccessivi che disgregano, e ci sono rituali non eccessivi che aggregano e rituali eccessivi non eccessivi che disgregano, no? Il problema fondamentalmente è che tu probabilmente preferisci un altro tipo di ritualità collettiva, per esempio un concerto, piuttosto che la partita di calcio. Cioè, può darsi che ci sia, cioè secondo me la reazione individuale rispetto a certe ritualità può essere duplice: o a te ti ripugna la ritualità, cioè far finta di essere tutti insieme, tutti uguali, anche quando non lo si è, qualunque sia il tipo di ritualità, oppure la reazione di chi preferisce un certo tipo di aggregazione piuttosto che un altro. Per esempio, l'aggregazione attraverso l'essere reagire allo stesso modo emotivamente rispetto a una musica, rispetto a una canzone o a un gruppo musicale, può essere preferita rispetto alla reagire tutti insieme rispetto a un gol. Io prima, quando però mi spiego meglio, allora hai fatto l'esempio giusto. Quando per spiegarmi meglio su cosa intendevo con ritualità più garbata e invece più estrema. Se io vado, che so, sono un amante di un certo genere di musica, il funky, e vado a fare il mio rito ascoltando musica funky, poi però tutti gli ascoltatori di funky non vanno a bruciare le chitarre alla band punk rock, non so se mi spiego, perché è un genere che non gli piace. Scusa, tu praticamente poi vai a casa tua dopo il concerto. Esatto. Ma non tutti vanno a casa loro, la maggior parte di quelli dopo un concerto vanno a fare qualche altra cosa, si ubriacano, fanno qualcosa. Cioè non è che non è vero che un carattere di distruttività tutte le forme di aggregazione ce l'hanno, perché c'è il problema che tu c'hai un problema, che è veramente un problema di lutto, come fai a separarti da quelli con cui ti sei aggregato, sia che tu sia andato allo stadio, sia che tu sia andato al concerto? Dopo c'è un qualcosa che devi elaborare, un lutto, ti devi separare. Come fai a separarti dopo? E con questo interrogativo io direi di mettere un pezzo musicale e poi la pubblicità. Sì, perfetta. La finestra in regia, povera Elisa si squaglierà e perché fa freddo Willy oggi. Oggi è una giornata tremenda, veramente, guarda. Freddo, mamma ecco. Mia, quante imprecazioni che mi scappano quando c'è questa temperatura. Vai, non ti do il là, anzi ti do il là, però per ritornare a bomba al nostro argomento. Il nostro argomento, che è molto interessante, mi porta a fare qualche riflessione, soprattutto per esperienza passata, quindi giovane. Allora, per i giovani e tutto ciò che ne concerne con lo sport, vi era una realtà che probabilmente è ancora che non riguarda, non prende in considerazione in nessun modo tutto ciò che può essere la filosofia della sconfitta, la filosofia del saper perdere col quale abbiamo iniziato questo nostro appuntamento, no? E ovviamente poi va da sé che con la crescita questa radice sviluppa e automaticamente vi è il concetto della distruzione, disperazione, non si può rimediare, morte, quando si parla di sconfitta, quando si parla di senso della sconfitta, quando si parla del famoso saper perdere. Il fare gioiello, il fare tesoro di questa realtà, a quanto pare è l'inferno, a quanto pare è un'eresia. Ricordo di un poeta che addirittura fu cacciato dagli Stati Uniti perché durante la guerra del Vietnam lui fece una sorta di apologia della sconfitta, cioè di come crescere, di come valorizzarsi, di come evitare di nuovo i nostri errori durante una sconfitta o dopo che si è subita questa. E appunto, se già da giovani veniamo introdotti alla competizione in questo modo, è ovvio che durante la crescita poi vi è un approccio automatico. Non sto esaltando la sconfitta, perdere non piace a nessuno, è chiaro. Però, punto di domanda. Dunque, adesso tu sollevi un problema che è un problema molto molto complicato, molto difficile. Allora, c'era un poeta sudamericano che diceva: ser joven es delito, essere giovani è delitto, no? Una delle ragioni per cui essere giovani è delitto è proprio questa, che da giovani si ha bisogno di vincere, si ha bisogno di vincere. È vero, da bambini si ha bisogno di affermarsi, di affermare se stessi. Cioè la costruzione di sé, la costruzione dell'io, si avvale delle vittorie e si deprime nelle sconfitte. Però c'è l'educazione. Cioè il problema è che crescendo uno deve imparare, a qualunque società appartiene, crescendo deve imparare che la vita è fatta di vittorie e di sconfitte. E non è detto che le vittorie siano la cosa migliore. Certe volte è la sconfitta che poi dà una svolta seria e importante alla tua vita. Ora, qui c'è un nodo educativo. Nella nostra cultura tende a mancare l'educazione e tende a mancare una degli aspetti fondamentali dell'educazione, cioè far sì che chi è giovane e ha bisogno di vittoria non apprenda l'idea che bisogna saper perdere come un qualcosa che assomiglia alla rassegnazione, alla rinuncia. No, non in questo senso, non è questo che vuol dire, non è questo che bisogna insegnare ai giovani. Vuol dire che vincere non vuol dire che tutto è finito, vuol dire vincere, vuol dire che poi è più probabile perdere, e perdere vuol dire che poi è più probabile vincere. Perché la vicenda dell'esistenza è tale per cui tu, per esempio, quando vinci ti rilassi, no? E poi certamente non sei più tanto competitivo, no? Guardiamo la partita, per esempio, la partita di ieri. Quando è stato il momento in cui sono stati competitivi? Quando stavano per perdere. Quando gli ultimi minuti sono stati quasi bravi. Se avessero giocato così, vincevano. Che vuol dire? Cioè vuol dire che in definitiva il problema non è, il punto è saper perdere, vuol dire è fondamentalmente un aspetto del saper vincere, perché saper vincere e saper perdere sono due facce della stessa medaglia. Dall'altra parte, per esempio, facciamo una similitudine con i nostri tempi, no? Se per caso la fortuna ti gira le spalle, cioè noi teniamo conto del fatto che c'è anche la fortuna o la sfortuna, se la sorte ti gira le spalle e tu perdi senza colpa, che fai? Ti disperi, te la prendi con te stesso? Cioè questa idea, per esempio, l'idea che passa oggi è che uno vince o perde in base all'impegno che ci ha messo, in base alla bravura che ha. Uno vince o perde in base all'impegno che ci ha messo, ma in quale percentuale? Poi ci sono altri fattori. C'è la sorte, le congiunzioni astrali, la palla che gira, la palla che è rotonda, eccetera, eccetera. Ecco, per esempio, meritava di vincere l'Uruguay con un cannibale in campo? Ah, bella quella, bellissima. L'Uruguay aveva un cannibale in campo. Se avessimo saputo che aveva un cannibale, l'avremmo tolto prima, perché quello non è un uomo, è un cannibale. Per la prima volta ho visto giocare a calcio con i denti, non mi era mai successo. Magari è già capitato e noi non lo sappiamo. È capitato. Anche. C'è chi giocava a pallacanestro coi denti. Sì, è capitato. Ma io non l'avevo mai visto. È capitato, ci sono quelli che mordono. E non si fanno vedere per quello che non li hai visto. Nella competitività mordono. Si può dire che è un calciatore con del mordente. No, ha lottato con le unghie e con i denti. No, si può dire che è uno che è primitivo. Si può dire che è un primitivo. È uno scorretto. No, è un primitivo, non è uno scorretto. No. Siamo oltre la scorrettezza. No, ti dà una sgambata. No, non è una scorrettezza. No, è scorrettezza, non ti dà la sgambata perché la sgambata te la fischiano. Vedete che non avete fatto sport. Appunto. La sgambata te la fischiano, non è una scorrettezza, te la puniscono. La scorrettezza è il gesto che non ti vedono e sai che non te lo fischiano, probabilmente. No, quella è una scorrettezza. No, ma in realtà l'arbitro l'ha visto. No, non credo. Sì. Per me no. E si parte con la discussione da stadio. No, perché no, io dico. Va bene, vi riporto a bomba. Allora, ci scrive M che dice: oltre alla ritualità di cui stavate parlando, i mondiali, come le Olimpiadi, possono aiutare ad accendere i riflettori su ingiustizie e scempi sociali. Come l'Argentina del 78, raccontata dalla stampa olandese, non solo, che intervistò le madri di Plaza de Mayo. Quindi, sì. Questo come grossi eventi che richiamano tanta oggi si direbbe multimedialità, una volta solo medialità, tutti i media all'intorno, e quindi è sicuramente l'occasione per veicolare messaggi che altrimenti non avrebbero nessun tipo di attenzione collettiva. Ancora una volta, certo, ci sono delle cose buone anche in queste. È ovvio che ci sono delle cose buone. Per esempio, un'altra cosa buona è che tutti insieme, ognuno con la sua patria, si scontrano, ma non per uccidersi, ma per mettere dentro una rete un pallone. No, questa è una cosa abbastanza buona. Si incontrano tutti e in questo modo c'è un incontro tra le diversità. Non c'è bisogno, per esempio, di dire che si parla un'altra lingua perché si parla coi piedi, cioè si trova un modo, in qualche modo, per esempio il calcio internazionale, il mondiale di calcio è un modo per dire che ci sono altri modi per interagire tra i diversi, tra i popoli, che non sono soltanto le diversità, che ci sono altri modi, giocando tutti, facendo tutti un gioco, cioè c'è un carattere di universalità nel fatto di fare un campionato mondiale. Ci sono delle cose positive, il problema è che si rovinano queste cose positive nel momento in cui uno perde e sembra una tragedia. Uno perde, ma non è una tragedia, no. L'Inghilterra è tanto tempo che perde, non è mica ne ha fatto una tragedia, sono sempre i maestri del calcio e tutte le persone che vedono una bella partita vanno a Liverpool. No. Ma che importanza ha? Non ha molta importanza. Io vorrei tornare all'educazione dei ragazzi, perché tu hai detto in Italia l'educazione non c'è. Secondo me c'è, ma va nella direzione opposta, ovvero se mai ti è capitato di seguire qualche partitella di ragazzini, giovanile, di pulcini, robe così, no? Ma vale per il calcio, ma anche in altri sport, devo dire. L'ho vista anche nel baseball io questa cosa qua, per dire uno sport che in Italia non è che abbia questo seguito. Sì, perché non è nella nostra cultura. Molto spesso finisce che a scazzottate tra i genitori, che sarebbero quelli tra le parti gli attori che si dovrebbero dedicare all'educazione. Quindi in realtà c'è anche in quella scazzottata una forma di educazione, perché ti educo, che ti faccio vedere, ti mostro davanti agli occhi, figlio mio, che la competizione in realtà è un valore e va portata avanti come bandiera, bisogna credere solo in quello. Sì, sì, ma lì c'è un altro componente, cioè il fatto che attraverso, per esempio, l'affermazione nello sport dei figli, i genitori tendono ad affrontare e a superare le loro frustrazioni. Cioè ci si può affermare anche attraverso l'affermazione nello sport di un figlio. Quando il figlio vince la partita, tu sei orgoglioso di tuo figlio e quando la perde ti umilia. Cioè ci sono, è ovvio che sono sentimenti normali quelli, no? Il problema è se si arriva allo scontro è perché appunto non si sa perdere, non si accetta la sconfitta. Quando si perde bisogna fare, ecco, per esempio una cosa bellissima che ha fatto il nostro allenatore, come si chiama il nostro allenatore che si è dimesso? Prandelli. Quando ha perso è andato a congratularsi col concorrente. È un gesto diritto, attenzione. Lo so per esperienza, l'ipocrisia nello la religione in confronto è finezza, però non sembrava tanto ipocrita. Non sembrava così ipocrita. C'è andato. In ogni caso c'è andato. Sì, non c'è andato un gesto, però con una smorfia storcia, è andato molto solare come. Era abbastanza. La stessa cosa, secondo me, c'è stata quando si è visto perso. Cioè, vorrei sottolineare anche alcuni aspetti umani che c'è. Si è visto perso quando hanno espulso Marchisio. Si è visto perso. Sì, è vero. Si è visto perso e rivolto con un atteggiamento umanissimo, secondo me, rivolto ai suoi, ha detto: beh, ci proviamo. Certo. Secondo me, comunque, oltre ad avere questo atteggiamento, per lui è stata anche il terzo fischio finale una liberazione. Per lui è stata una sofferenza incredibile, non vedeva l'ora che finisse, perché sapeva benissimo che sarebbe finita così. Quindi, fischio, 90esimo, 95esimo, quello che era, via il male, via il dolore. Dopo da qui vediamo, dimissioni, però è stata una liberazione, cioè, come dire, bisogna anche vedere gli aspetti positivi delle persone, no? Perché adesso sembra, adesso per esempio, in altri casi abbiamo visto allenatori comportarsi in maniere completamente diverse, da questo punto di vista, per esempio, questo è uno, poi si è dimesso subito, che ha accettato la sconfitta, è uno che sa perdere, ha perso, punto. Sì, ha fatto delle dichiarazioni un po' importanti prima, diciamo che... Sì, l'arbitro, eccetera, ma quello è come dire... Non solo, si vince per la patria, poi è colpa dell'arbitro, poi uno c'è morto, diciamo che... Poi l'uscita è stata questa, ovviamente, nel senso, ne ho pestate due o tre, non mi pulisco nei pantaloni, però esco stringendo le mani, fondamentalmente, secondo me. Sono un po' critico probabilmente con l'atteggiamento di Prandelli. No, ma io volevo solo sottolineare gli aspetti, come dire, positivi. Gli aspetti positivi ci sono stati, indubbiamente. E quindi, andiamo in musica? Pronti con la musica? Manda Elisa questo brano bellissimo che è Rock You Baby. Vai. Marta, o come mi mancheranno le scelte musicali di Willy, ci scrive Manuela di dalla sede di Amici di Rivivere. Grazie, un abbraccione, ci vediamo sabato. Uno splendido coniglietto, ci dice anche Amici di Rivivere, saluta tutto il pubblico. Voi non vi saluto perché spero di vedervi sabato al Pride, e certo. Faremo il possibile, farò il possibile, Francesca c'è. Io ci sono di sicuro, okay, Willy okay. Forse non è a Bologna, vedremo. Faremo insomma, cercheremo di legarlo, sì, qua il venerdì così. Al suo tandem, perché è un Pride ecologico, eh? E quindi io sì, mi presenterò in bicicletta. Certo, anch'io. No, io a piedi. Te a piedi. Ma sì, oh, te c'hai il fisico. Ma è più ecologica la bicicletta o è più ecologico il piede? Non lo so. È caduto il silenzio. Questa è una domanda. Bene, visto che anche il Pride, volendo, è una ritualità, torniamo. Lo è. Come? Torniamo al discorso. Ma una ritualità che ci piace. Più identitaria, ma lo è. Che non è vero, perché in realtà partecipano anche un sacco di persone, divertendosi, sì, sì, e standoci bene, sentendosi parte. Pur non... Ma la ragione per cui si organizza, certo, non è di far partecipare gli amici. Comunque, bel rito, quello lì è un rito che mi piace. Torniamo ai riti. Perché voglio concludere sul famoso, sempre io vado sempre sul superamento, no, della crisi. Allora, abbiamo parlato, esatto, abbiamo parlato di ritualità, oppio dei popoli, oggi può essere il calcio, la ritualità che sta intorno al calcio, l'oppio dei popoli, non più la ritualità religiosa, ma come può l'uomo, l'essere umano, inventarsi una modalità eventualmente di aggregazione o trovare delle modalità di aggregazione, anche di condivisione di identità e quant'altro, senza rinunciando alle ritualità o senza le ritualità, secondo te? Ma secondo me, se posso azzardare una idea utopica, sì, è che la ritualità come mezzo di aggregazione, con tutti i suoi limiti, si può superare se si parte da qualcosa che si ha in comune, non se si parte dalla diversità per trovare qualcosa che si ha in comune. Perché se noi partiamo dall'essere tutti diversi, ognuno per conto suo nella propria storia, e poi andiamo tutti al concerto e allo stadio per sentirci tutt'uno con gli altri, il movimento è dalla diversità alla comunanza. Vabbè, però scusami, no, qui ti fermo. Tu dici partire da ciò che ci accomuna. A me, certo, accomuna Willy e altre persone quel gruppo musicale, quindi siamo partiti da quello, no, che ci accomuna. No, ma questo vuol dire, e andiamo al concerto. No, ma partire da quello che ci accomuna vuol dire avere il sospetto che ci sia qualcosa che ci accomuna, a prescindere dal fatto che noi poi ci accomuniamo, a prescindere dalla nostra, che in fondo noi ontologicamente siamo uguali, non siamo prima diversi e poi diventiamo uguali, ma siamo prima uguali e poi diventiamo diversi. Allora la scommessa qui è quella di individuare qualcosa che accomuna tutti da sempre, a prescindere, come esseri umani per esempio. Che cos'è che può accomunare tutti a prescindere come esseri umani? C'è una linea di pensiero nella storia umana che tende a fare questa ricerca, non a cercare i modi per diventare uguali da diversi che siamo, ma a cercare i modi per differenziarsi a partire dal fatto che siamo uguali. Per esempio, in cosa siamo uguali? Nel fatto di avere dei bisogni biologici. Siamo tutti uguali, no? Con quella cosa che dice certe volte che si trova il Papa e il Re, qui dentro sono uguali a me, al cesso, no? Cioè gli aspetti biologici. Poi c'è un'altra cosa molto interessante, nella ricerca filosofica, Simone Weil, per esempio, ha fatto questa seguente proposta: le persone, tutti gli uomini, sono accomunati da qualcosa che li caratterizza da sempre, a prescindere dal fatto che lo sappiano, e cioè il desiderio del bene. Tutti desiderano il bene. Ora, se noi partissimo dall'individuare qualcosa che ci accomuna, sarebbe molto più facile evitare le ritualizzazioni, perché le ritualizzazioni invece sono quello che è indispensabile, necessario, non se ne può fare a meno se si parte invece dalla diversità. Allora, per esempio, quando arrivano gli immigrati, arrivano dall'Africa, arrivano da un altro mondo, quando incontri una persona che appartiene a un altro mondo rispetto al tuo, no? E tu sai che ha qualcosa che, nonostante questo, lo accomuna a te, parti da un altro punto di partenza. Se invece tu supponi che quando uno arriva da un altro mondo bisogna trovarle, costruirle delle comunanze, è tutta un'altra cosa. Allora il rituale è indispensabile. Allora i rituali sono indispensabili. Per esempio, nella musica, cos'è che accomuna tutti nella musica, qualunque concerto vadano a vedere? Qualunque, attraverso qualunque sia il rituale attraverso il quale si accomunano. E le persone che vanno a vedere un gioco, che vadano al calcio, al rugby, al baseball, al pallavolo, eccetera, che cos'è che li accomuna? Allora il problema è, questa ricerca è una ricerca che nella nostra cultura non c'è. Nella nostra cultura si parte dall'idea, dalla convinzione sbagliata, secondo me, che noi siamo diversi. Prima di tutto siamo diversi e poi dobbiamo costruire un mondo comune in modo da poter convivere nella nostra diversità. L'idea mia invece, che appartiene a un altro tipo di cultura, è che noi invece siamo uguali e ci differenziamo in base, per esempio, a dove andiamo ad abitare, se andiamo ad abitare in un posto freddo, in un posto caldo, in base al fatto se siamo poveri, se siamo ricchi, ma prima siamo tutti uguali. E con questo direi che il desiderio del bene, io concluderei proprio così, è una cosa che mi convince molto. Noi tutti, da qualunque parte proveniamo, il lappone, il cinese di Shanghai, l'africano, lo zulu o il pigmeo, e così eccetera, siamo tutti accomunati dal desiderio del bene. E dai pigmei ai vatussi, una buona giornata allora. E salutiamo. Appunto. Salutiamo tutti quelli bene. Che ci hanno ascoltato, che ci hanno seguiti. Ricordo che ho aggiornato la pagina di Oltre la Crisi sul nostro sito. Adesso ci sono tutti i podcast belli infilati per bene. Manca solo questo, perché doveva essere ancora fatto. Che se l'ha infilato per bene? Entro stasera. Bene. Per tempo. E quindi abbiamo fatto, ti comunico, 31 con questa 32 puntate. Però. Ah. Non te ne eri accorto. Ci abbiamo fatto 31, facciamo 32. Esatto. 32. Siamo andati avanti noi. 32 oggi, e quindi niente, adesso è tutto bello aggiornato, quindi se avete perso qualche puntata e volete recuperarla, fino a... dalla prima alla 32esima le trovate tutte nella pagina sul sito di Oltre la Crisi Parliamone. Bene. Salutiamo tutti, diamo grazie a tutti, ci rivediamo quest'altra stagione, vedremo anche come fare, stiamo già pensando a delle idee, delle modifiche. Elisa in regia, le cose. Elisa in regia, Willy però opinionista agli SMS, se io. Ogni tanto butta un occhio, sì, ci okay. Fa piacere, okay. Voce. Ogni tanto butto un occhio e una voce. Va bene, una voce. Va bene, salutiamo tutti quelli che ci hanno aiutato a fare questa trasmissione, che sono intervenuti, e a quest'altro anno. Buon'estate. Buon'estate. Ciao. Alla ciao. Ricerca del bene. Ciao a tutti. Alla ricerca del bene. La crisi. Parliamone. In studio il professor Francesco Campione.